fra poco no faccia l'incidente e le si vede dopo di te ragazzo e questi che te lavora ti compagnisco. E gli obri ami e capisca che vieni che urla urla che urla molto cari urla e capisca che le anima sparisce le vieni che urla vieni che urla. Thank you.

son messo in cammino. E tratto sol dal fascino dell'ora, e questo il sole non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome. Thank you.